La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Mi impiccheranno fra pochi minuti, aiutatemi, mi impiccheranno. Sono state queste le ultime parole di Delara Darabi, una ragazza iraniana di 23 anni. È stata condannata a morte per impiccagione, per un omicidio confessato a 17 anni, ma poi si era sempre dichiarata innocente. Il padre è arrivato in carcere subito dopo, ma la donna era già morta. Ecco, insomma, una storia purtroppo finita male che noi qui alla Quota Rosa vogliamo denunciare. Speravamo che Delara ce la facesse, speravamo nelle scorse settimane che il regime degli Ayatollah, il regime iraniano, potesse allentare la morsa e magari commutare la pena in ergastolo per questa ragazza di 23 anni, una pittrice, ma purtroppo non è andata così. La situazione si fa sempre più dura in Iran, sappiamo che la giornalista americana, considerata una spia dal regime, ha per fortuna sospeso lo sciopero della fame, ma purtroppo ancora c'è moltissimo da fare. Per parlare dei problemi del mondo islamico, ma stiamo poi parlando di regimi, quindi è abbastanza difficile, e della donna nella visione del mondo islamico, noi abbiamo con noi Yumana Haddad, poetessa e giornalista libanese, fondatrice della rivista Hasad, Corpo. Allora, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Lei sfida un po' il mondo islamico, dirige una rivista che addirittura si chiama Corpo, quando il corpo femminile nell'Islam è sempre nascosto. Sì, ma io direi... Invece direi, non direi che sto sfidando il mondo islamico, direi che sto sfidando il mondo orientale, perché ci sono anche cristiani in Oriente e non sono sempre, direi, meno radicali dei musulmani. Quindi preferisco, invece della parola il mondo islamico, utilizzare la parola orientale, se me lo permette. Lei di che religione è? Io sono cristiana. Ah, cristiana, quindi è libanese cristiana. Vive in un paese da moltissime facce e moltissime religioni che fino a poco tempo fa convivevano pacificamente. Purtroppo oggi non è più così. Qual è il problema fondamentale delle donne libanesi? C'è emancipazione nel suo paese oppure c'è stato un andare indietro come gamberi visto la preminenza degli estremisti sciiti? Io direi che nel nostro paese il vero problema è la schizofrenia, perché ci sono veramente delle contraddizioni che hanno smesso di farcela convivere insieme. Per esempio, o c'è la donna veramente sottomessa, frustrata, oppure c'è l'altro esempio della donna che capisce, che crede che la libertà per lei sia solo il fatto di poter andare in minigonna e dimostrare il suo corpo. Questo ovviamente è importante, l'uso del proprio corpo è un diritto, ma comunque non può la libertà di una donna non può essere ridotta alla sua dimensione corporale, al fatto di come si veste. E quindi ci sono tanti problemi, perché invece di lottare per una vera libertà, per un vero potere, questa donna si sta accontentando di un giocattolo, il giocattolo dell'illusione della donna aperta, che può fare tutto quello che vuole, invece non lo può fare. Cioè, il discorso è che si scambia la libertà per un pezzetto di corpo in più che si riesce a mostrare, questo che... Infatti questo è come un prezzo di consolazione, come un prezzo malizioso che ci danno per farti tacere, quindi è una trappola e dobbiamo fare attenzione. Ma per esempio le donne di Hezbollah sono però tutte velatissime e copertissime. Ovviamente, sì. Ovviamente, sì, quindi sì. Lei parla appunto, poi alla fine... parla di un aspetto magari di altre religioni all'interno del suo paese. No, ma ci sono anche delle donne musulmane che non sono velate, non dobbiamo generalizzare, non è il fatto di essere cristiana, non vuol dire necessariamente vestirsi in un modo voglio dire, succinto si direbbe. Ma allora diciamo che c'è anche all'interno dell'Islam, sicuramente in Libano ci sono delle differenze tra una donna degli Hezbollah, quindi del partito di Dio sciita, e una musulmana invece magari sunnita. Ci sono grossissime differenze, c'è cioè una visione più liberale della religione anche all'interno dell'Islam. Non solo sunnita, anche tra le sciite, io ho tante amiche sciite che non sono delle donne di Hezbollah. Avere un partito che si chiama Hezbollah, un partito sciita, non vuol dire che tutti i sciiti fanno parte di lui, ci sono delle eccezioni. Io ho tante colleghe sciite che mi assomigliano al 100%, non potresti sapere la differenza. E dall'altra parte ci sono delle donne sunnite che appartengono a delle famiglie molte tradizionali. Non dimentichiamo il radicalismo sunnita che è rappresentato da Talbane, da Qaeda, quindi non cadiamo in questi stereotipi, c'è di tutto dappertutto, diciamolo così. Intanto noi leggiamo anche tra le righe dei giornali che in Arabia Saudita non c'è Miss Bikini, non c'è Miss Universo, ma c'è Miss Moralità. Ad essere eletta non sarà la più bella delle partecipanti, ma la ragazza che avrà dimostrato di avere la migliore moralità. Cerchiamo così di misurare i valori islamici come alternativa alla decadenza morale dei concorsi di bellezza occidentali che riguardano solo il corpo. E questo noi ci sentiamo di condividerlo, però quello che noi non condividiamo, che era poi quello che lei ci diceva, è il fatto che non c'è una via di mezzo oramai. Noi assistiamo in Italia alle veline, alla polemica delle veline, se vengono incluse o meno nelle liste, e dall'altra parte in Arabia Saudita, dove c'è invece un estremismo, dove tutte velate. Allora, quando è che la donna verrà vista nel suo complesso così com'è? L'anticliché è ridurre la moralità alla sua rappresentazione molto superficiale, cioè non è questa la moralità. Per esempio noi e in tanti altri paesi arabi dove ci si parla ancora di verginità, assistiamo ad una mise en scène veramente raccristante. Il fatto che le ragazze fanno tutto quello che vogliono, poi prima di sposarsi vanno da un dottore e si rifanno la verginità. E questa è la moralità? Allora, noi ringraziamo Youmana Haddad, poetessa, giornalista e traduttrice libanese. La quota rosa. Benvenuti in questa seconda parte dove si parla di elezioni europee. La scorsa settimana ci siamo occupati di PDL e PD, questa settimana invece gli altri tre partiti, UDC, IDV e Lega. Allora, intanto andiamo a scartabellare subito, perché noi siamo delle impiccione alla quota rosa, quante donne sono in lista. L'UDC ne mette in lista 24, vale a dire il 33%. L'IDV 27 donne, il 30% della lista, e la Lega 25 donne, il 35% della lista. Quindi la Lega addirittura il partito con più donne in assoluto, almeno per questa parte di puntata. Per parlare delle donne in lista, ma anche dell'Unione Europea, ma anche dell'assenteismo dei nostri europarlamentari e delle promesse che solennemente ci faranno i nostri candidati, anzi le nostre candidate qui in trasmissione, abbiamo Silvia Noè, UDC, candidata alle europee, Sonia Alfano, IDV, candidata alle europee, e poi una nostra vecchia conoscenza che salutiamo, Carolina Lussana, Lega, deputata alla Camera. E proprio a Carolina Lussana voglio chiedere intanto un consistente numero di donne candidate, noi siamo tutti molto contenti e ringraziamo la Lega Nord per questo piccolo passo avanti nelle pari opportunità. Il vostro capolista è comunque Umberto Bossi, un po' il punto di forza mi sembra Mario Borghezio e Francesco Speroni. Poi abbiamo come donne Sonia Viale, Dina Maria Benna, Patrizia Borgarello, insomma tante donne. Ma controllerete un po' che queste europarlamentari e questi europarlamentari siano effettivamente a Strasburgo? Ma è chiaro che da sempre la Lega, l'impegno nello svolgimento del proprio mandato è un punto qualificante. Da questo punto di vista noi siamo un movimento che ha grande interesse a che i rappresentanti ai vari livelli, appunto dalle istituzioni regionali piuttosto che al Parlamento nazionale, piuttosto che in Europa, siano lì per rappresentare gli interessi degli elettori. È vero che per quanto riguarda il discorso del Parlamento europeo forse l'assenteismo è più diffuso, ma io ritengo che chi dà la propria disponibilità a comunque un'elezione, una candidatura così importante, debba dare per scontato che l'impegno deve essere sicuramente massimo. Comunque ripeto, noi siamo abituati magari nelle nostre liste a non candidare personaggi famosi, personaggi che provengono dal mondo dello spettacolo piuttosto che da altri settori dove hanno avuto una certa modo di farsi conoscere, una certa visibilità. Siamo abituati a candidare persone che da tempo, magari in silenzio, si occupano di politica, magari partendo da un piccolo comune, per arrivare poi anche a una candidatura alle europee. Infatti nelle nostre liste, soprattutto quando si parla di donne, ci sono tante amministratrici locali, quindi portare quello che è stato l'impegno a favore della propria comunità in Europa per difendere maggiormente gli interessi del nostro paese in Europa. Anche perché la Lega ha dei contrasti sempre un po' con Strasburgo e Bruxelles, no? La vostra politica anche adesso riguardo per esempio al rimpatrio degli immigrati clandestini in Libia, no? Al respingimento, come ha sottolineato il ministro degli interni Maroni, insomma ha suscitato qualche critica dall'Unione Europea, quindi insomma questa presenza leghista deve essere... dall'Unione Europea non mi risulta. Noi siamo stati in passato e continuiamo ad esserlo in certi aspetti euroscettici, nel senso che tante volte vediamo un'esautorazione dello Stato nazionale da parte delle istituzioni europee dove, dobbiamo dirle, non c'è un alto grado di democraticità, perché il deficit di democrazia, se pensiamo a come funziona ad esempio la Commissione europea, è sicuramente evidente, e sappiamo benissimo che l'istituzione che dovrebbe bilanciare il Parlamento europeo solo ultimamente ha assunto un ruolo maggiore nell'adozione di decisioni che poi riguardano i cittadini europei. Prima il Parlamento europeo aveva meramente una funzione pressoché consultiva, poi c'è stato il cambiamento, chiaramente si è arrivati a una legislazione basata prima sulla cooperazione, adesso sulla codecisione, quindi c'è maggior potere vincolante. Ma voglio dire, è di attualità la polemica sull'aranciata in Italia. Noi non siamo sicuramente a favore di un'Europa che magari ci impone di avere un'aranciata che non ha neanche il 7% di succo d'arancia originario contenuto nella bottiglietta, quindi questo non riteniamo sia un modo corretto di interpretare l'Europa. L'Europa invece deve essere uno spazio giuridico, di cooperazione comune, ma ci deve anche essere il rispetto di quelle che sono le tradizioni dei paesi tipici, dei paesi nazionali. Per quanto riguarda l'immigrazione, le critiche sono arrivate dall'ONU per quanto riguarda magari dell'ONU, poi Save the Children, insomma, poi c'è l'opposizione che vi accusa di leggi razziali. Ministro degli interni di Malta che ha detto: bravo Maroni, è stato applicato una norma che non è quella del rimpatrio ma quella del respingimento, e quindi del praticamente ricondurre i clandestini non nel paese di provenienza come avviene normalmente, cioè nei centri di identificazione vengono identificati e poi espulsi, ma il respingimento nel paese di provenienza dell'immigrazione sulla base dell'attuazione di un accordo Italia-Libia che è stato sottoscritto e ratificato dal Parlamento italiano. Voglio dire, abbiamo regalato, io non credo regalato, comunque abbiamo concesso alla Libia dei finanziamenti perché si prendesse anche l'impegno di pattugliare le nostre coste e di evitare purtroppo il traffico di persone, perché quello che accade nel Mediterraneo è una vergogna, il traffico di persone innocenti. Allora, fermo restando chiaramente la salvaguardia delle vite umane, il diritto al respingimento c'è, la Libia chiaramente si è impegnata con noi ed è stato applicato, tant'è che il ministro dell'interno maltese ci ha fatto i complimenti. Vorrei dire, in Spagna si comportano allo stesso modo, l'Italia forse fino adesso è rimasta un po' indietro, ma è chiaro che anche in Europa ci deve essere una maggiore responsabilizzazione del fatto che la clandestinità o più che altro che lo sbarco di clandestini deve essere fronteggiato e affrontato in maniera comune e chiaramente potenziando quella che è la cooperazione internazionale. E allora abbiamo sentito proprio una leghista storica e proprio che ci parla di quelli che sono i temi che la Lega porta sia nel nostro paese sia in Europa, che per loro, per l'elettorato leghista sono importantissimi. Ovviamente di parere opposto è l'IDV, Sonia Alfano, candidata alle europee. Ricordiamo, l'Italia dei Valori porta 27 donne, il 30% delle liste. Antonio Di Pietro ieri ha detto il governo, riferendosi poi alla politica della Lega, fa una politica di immigrazione razzista. Si è parlato anche di leggi razziali da parte di Dario Franceschini del PD. Insomma, Silvia Alfano, IDV, candidata alle europee, quale sarà la vostra politica invece rispetto a questo tema e anche agli altri temi a livello europeo? Quali sono per voi le priorità? Allora, io trovo assolutamente inverosimile che oggi si continuino a proporre in effetti quelle che sono leggi razziali. Proprio ieri un esponente della Lega a Milano ha proposto di lasciare dei posti liberi sugli autobus e sui tram per i milanesi. Lo trovo veramente non solo ridicolo, ma un ulteriore evidente segnale di come le leggi razziali potrebbero tornare ad albergare in questo paese. Io la interrompo per dire una cosa, che ci fu una rivolta di una donna, quindi la voglio citare per ricordarla, che si chiamava Rosa Parks. Lei rifiutò di alzarsi da un posto e a quel punto si scatenò uno sciopero che poi ha fatto sì che la segregazione in America negli anni 50-60 finisse, e finisse con una marcia bellissima che è la marcia a Washington di Martin Luther King. I have a dream. Prego. Esattamente. Ripeto, lo trovo davvero incredibile, così come trovo assurdo, e mi auguro che davvero non accada nulla di tutto questo, perché torneremo indietro, come sta sottolineando lei, di decine e decine di anni. Trovo ridicolo e assurdo obbligare alla denuncia medici, e insegnanti e presidi. Sarà forse che io vivo in Sicilia e vedo tantissimi di queste persone, di extracomunitari, che vengono nel nostro paese non per colonizzare, ma vengono in questo paese per lavorare, per trovare dignità, perché evidentemente nel loro paese di appartenenza tutto questo non gli viene negato. E io ho visto arrivare in alcuni casi a Lampedusa i barconi della Speranza. Non mi sono sembrati dei delinquenti, è gente che arriva là stremata. Rimandarle indietro significherebbe continuare a stremare queste persone, continuare a violare la loro dignità, continuare a calpestare anche le loro aspettative. È ovvio. Quindi, che noi non possiamo recepire, anche perché in Italia abbiamo già tanti problemi noi, per carità di Dio, però cerchiamo di non essere, di non cogliere queste cose come scuse per poter per l'ennesima volta mettere davanti a tutto il razzismo e la presunzione di superiorità rispetto agli altri. Io ricordo che quando i nostri connazionali sono andati negli Stati Uniti sono stati trattati comunque in questa maniera. Chiediamoci che cosa possono avere provato i nostri nonni e i nostri bisnonni quando sono andati là per lavorare. Molti di loro hanno lavorato in maniera onesta, c'è stato qualcuno che invece... Ecco, Sonia, io le sintetizzo. Quindi lei, se tante volte venisse eletta all'Unione Europea, quello che porterà come istanza è il rispetto degli immigrati. Assolutamente sì, il rispetto di tutta la popolazione. E come se ne esce? Perché giustamente Carolina Rossana ci diceva, noi non possiamo accogliere tutti, come questo se ne esce? L'ho detto anch'io, però cerchiamo di essere rispettosi. Il fatto di dover, ripeto, mettere sui pullman, sugli autobus, che non ci si può sedere se non si è milanesi, quando sappiamo benissimo che ci sono dei disabili che non hanno neanche un po' di attenzione, nessuno vuole che per i disabili insomma vengano visti come dei privilegiati, anzi mi sembra che siano visti in maniera assolutamente contraria, visto che il nostro paese è pieno di barriere architettoniche, però addirittura è davvero l'apartheid questo. Quindi io mi piacerebbe che l'Unione Europea mettesse davvero tutti i paesi nelle stesse condizioni di poter agire sicuramente in maniera univoca, ma nel pieno rispetto della popolazione che si presenta. Non siamo gli unici che hanno questo tipo di problema, però mi sembra davvero razzista avere un tipo, questo tipo di atteggiamento, o addirittura obbligare i medici, ma scusate, il diritto alla salute non è per tutti. Allora, abbiamo sentito Sonia Alfano, IDV. Io ricordo che era il dicembre, il primo dicembre 1955, quando Rosa Parks si rifiutò di alzarsi da una sezione per i bianchi di un autobus di Montgomery in Alabama. La Quota Rosa. Si parla di elezioni europee, si parla qui alla Quota Rosa di donne candidate nelle liste. Allora andiamo a vedere che cosa succede nelle liste dell'UDC. Nelle liste dell'UDC abbiamo intanto due new entry che sono però maschili. Uno è Magdi Cristiano Allam e l'altro è Emanuele Filiberto, insomma due new entry abbastanza contrastanti tra di loro, però insomma l'UDC candida 24 donne, 33% delle liste, ancora siamo bassini ma c'è una speranza. Silvia Noè, candidata UDC alle europee. Abbiamo parlato un po' dei temi che sono sul piatto quando voi andrete a Strasburgo, se mai sarete eletti e elette, e abbiamo visto l'immigrazione è uno dei cardini abbastanza, e soprattutto la protezione delle frontiere, dice la Lega. Dall'altra abbiamo sentito la candidata di DV, attenzione invece al razzismo. Allora, voi dell'UDC come vi ponete in questa querella? Dunque, in questa querella ci poniamo partendo da una legge che è quella della domanda e dell'offerta, cioè questi immigrati che chiedono di entrare nel nostro paese lo chiedono anche per trovare una sistemazione non solo fisica ma soprattutto una sistemazione occupazionale. Certo che io sono concorde con parte degli interventi che hanno fatto le due persone che mi hanno preceduto. Purtroppo oggi ci ritroviamo a dover subire sicuramente quello che è stato un malgoverno in passato di quelli che sono stati i flussi di entrata e che oggi, a seguito di questo malgoverno, hanno reso anche difficile una serena convivenza. Tutto questo poi amplificato, soprattutto in questi ultimi mesi, dal fatto che l'offerta di lavoro oggi non sia più tale da poter soddisfare sia una domanda interna aggiunta anche ad una domanda esterna che si è verificata nel passato e che oggi dà occupazione a circa il 7% di una popolazione di origine extracomunitaria, ma che purtroppo forse non è in grado di soddisfare altro. E ricordiamo che con la crisi la cosa si è aggravata, per cui adesso, mentre gli italiani alcuni lavori non li facevano più, adesso con la crisi sono tornati a chiedere di farli. Ecco, questo c'è stato anche questo problema. Questo è un problema molto grande che soprattutto riguarda, voglio dire, anche il problema al femminile, perché forse quegli immigrati che più facilmente hanno trovato occupazione nel nostro paese, devo dirlo senza creare particolari problemi, sono state le donne, mi sento di dire, perché nelle nostre case sono state accolte per lavori di cura e di assistenza dei nostri figli e dei nostri anziani senza mai creare problemi. Forse la questione diventa difficile perché sono le aziende che oggi non sono in grado di soddisfare un certo tipo di domanda. Quindi io sono d'accordo sul fatto che ci sia un inasprimento ma una ridefinizione chiara di quelle che sono le regole di ingresso, perché è assolutamente nel rispetto di queste regole che si può gestire meglio un flusso. Sì, allora le voglio chiedere subito, ma voi come vedete questa cosa del respingimento? Cioè questi 227 clandestini sono stati riportati a Tripoli, dove sicuramente non c'è un campione di diritti umani. Allora, quello che io voglio capire, voi siete favorevoli come con la Lega a questo aspetto, oppure siete favorevoli a che questi immigrati vengano in Italia, vengano riconosciuti e poi rimpatriati? Ci sono due scuole. Guardi, la situazione qui è molto difficile da poter definire. Io personalmente oggi sono consapevole del fatto che la presenza attualmente in Italia è una presenza che non è in grado di soddisfare ulteriormente altre domande di lavoro. Purtroppo quando questi ingressi avvengono in modo irregolare, Cioè l'accoglienza è un'accoglienza che poi a un certo punto si deve far carico di tutta una serie di sistemazioni che deve verificare se è in grado di dare. Perché finché si tratta di dare un'accoglienza nei centri di immigrazione oppure attraverso l'intervento della Caritas, questo è un intervento che può dare solamente una risposta temporanea e immediata, ma se poi il problema lo vogliamo affrontare anche a lungo termine, bisogna che ci siano anche delle prospettive occupazionali. Se queste prospettive occupazionali oggi il mercato le delinea in senso negativo. Insomma, lei sarebbe favorevole comunque anche al limite al respingimento, a questo. Io potrei essere favorevole. Lei potrebbe essere favorevole, perfetto. Senta, la presenza di Magdi Cristiano all'AM è fondamentale per un partito che diciamo si professa ufficialmente al 100% cattolico, l'unico partito che è al 100% cattolico in Italia oggi? Cioè questa conversione non rischia poi di farci vedere sempre come la nazione che vuole convertire tutti quanti al cattolicesimo? No, io non vedo assolutamente questo. No, perché c'è stato un attacco anche dei talebani contro il pontefice Benedetto XVI recentemente, stop al proselitismo, eh? No, io questo non vedo assolutamente questo pericolo. Io vedo nella candidatura di Magdi Cristiano Allam una candidatura che definisce chiaramente la sua identità e i suoi valori, ma all'insegna poi di un esercizio, all'insegna della laicità. Quindi non vedo assolutamente questo pericolo. Poi la seconda domanda è su Emanuele Filiberto. Va bene, lui sì, ok, lo sappiamo, è l'erede di Casa Savoia, però più che altro in Italia è conosciuto, no? Per Ballando sotto le stelle, per essere un po' un velino. Quindi anche voi avete il vostro velino, un velino maschile. Non avete le veline femminili, ma avete il velino maschile. Questa è una candidatura che Silvia Noè. Personalmente? Personalmente comprende relativamente perché... E noi siamo con lei, perché noi non ci piacciono le veline, non ci piacciono i velini. Ma sì, guardi, soprattutto perché a me mi preoccupa soprattutto una cosa, questa connessione che si sta creando fra la politica e lo spettacolo, in un momento in cui invece dobbiamo sempre più ribadire alcuni valori che sono la meritocrazia, l'autorevolezza e la dignità. Quindi personalmente, per quanto io possa avere dei dubbi nei confronti di questa candidatura, forse anche di un personaggio che io non conosco a fondo, oggi come oggi mi pongo in modo critico, però per fortuna dico che questa è una competizione, e grazie anche a una battaglia che abbiamo condotto noi dell'UDC, che si svolgerà all'insegna delle preferenze. Quindi mi auguro che gli italiani, di fronte così a una gamma di proposte che i partiti fanno, gli italiani poi possano esprimere quella a cui attribuiscono maggiore credibilità, perché qui il problema oggi è di non confondere la visibilità con la credibilità, e credo che scusate il bisticcio di parola. No, ma è chiaro. Ma ritengo che la credibilità debba passare da una fase transitoria importantissima, come dicevano anche le mie colleghe, che fondi sia su un'esperienza personale, lavorativa, e anche un'esperienza amministrativa. Dico questo perché io sono oggi impegnata come consigliere comunale a Bologna e come consigliere regionale dell'Emilia-Romagna da alcuni anni, però sono anche imprenditrice, e quindi quando oggi mi propongo al mio elettorato lo faccio in funzione delle esperienze che ho vissuto in prima persona come lavoratrice e anche come politico. Ecco, questi oggi a mio avviso devono essere i valori. Allora io la interrompo perché voglio ridare un attimo la parola a Carolina Lussana, perché un po' la Lega è sul graticola delle critiche in questo periodo, no? Allora è una ovviamente una provocazione, rispondiamo a quella lì di Matteo Salvini della Lega Nord su gli autobus e sul metro. Carolina Lussana ce lo conferma? È una provocazione fatta perché... a titolo personale da Matteo Salvini, quindi non la commenterei neanche più di tanto. Capisco, fa notizia, chiaramente si vuole enfatizzare questo aspetto per cercare ancora una volta di mettere in ombra invece la politica in campo in contrasto all'immigrazione clandestina che il ministro Maroni sta portando avanti, perché vede, io ho apprezzato molto il pragmatismo di Silvia Noè, che ha effettivamente messo in luce quello che è un dato di fatto. Noi non possiamo pensare, come ho sentito un po' filosofeggiare, mi scusi per questo termine, Sonia Alfano, Sonia Alfano sulla società aperta, accogliamo tutti, perché purtroppo non ci sono le condizioni per accogliere tutti. Lei stava parlando della sua terra, della Sicilia. In Sicilia abbiamo purtroppo un tasso di disoccupazione interna, e se guardiamo anche le liste di disoccupazione al nord, non ci sono solamente adesso i disoccupati italiani di casa nostra, ma ci iniziano ad essere anche disoccupati di origine straniera. E allora dobbiamo portare avanti veramente una politica seria che controlli quello che è l'accesso nel nostro paese attraverso una seria regolamentazione dei flussi, perché purtroppo oggi, a causa della crisi, dobbiamo essere realistici, non possiamo accogliere tutti, perché non siamo in grado, attraverso lo strumento del lavoro, di fare in modo di mettere tutti in condizioni di avere pari dignità di vita sociale. E allora c'è il problema degli sbarchi, c'è il problema dei clandestini che continuano ad arrivare al nostro paese, come c'è anche purtroppo il traffico di persone che continua ad essere gestito da persone spregiudicate che lucrano. Le reduci del Pinar dicono che lì in Libia sono lager quelli dove abbiamo rispedito questi 227 clandestini. Benissimo, sono lager in Libia, c'è una situazione di difesa dei diritti umani in Iran, in altre parti del mondo. Di questo si deve fare carico l'Italia? Allora, abbiamo sentito Carolina Lussana, l'ultima in chiusura velocissima, ridiamo la parola a Sonia Alfano dell'IDV, candidata alle europee. Ha sentito l'accusa di Carolina Lussana: non possiamo dare asilo a tutti, non c'è lavoro nemmeno per gli italiani e figuriamoci per gli stranieri. Mi dispiace che la signora Lussani non ha probabilmente sentito bene il mio intervento. Io non ho detto di ospitare tutti, anzi ho proprio sottolineato il fatto che purtroppo noi non siamo, soprattutto in questo momento, proprio non in grado di dare ospitalità a tutti. Io ho sottolineato il diritto e il rispetto nei confronti di queste persone. Io, rispetto a quello che ha detto la signora Lussani poco fa, cioè sul tasso di disoccupazione, gli sbarchi clandestini, allora io vivo in Sicilia, non vado a farmi le vacanze in Sicilia, ci vivo. Posso dire molto chiaramente che in Sicilia, quando queste persone non vengono bloccate e messe nei centri di ospitalità, queste persone raggiungono spesso e volentieri il nord e hanno lavorato e lavorano da anni nelle fabbriche del nord, spesso sfruttati, però fino a quando questo ha fatto comodo, perché in Italia determinati lavori gli italiani non volevano più farli, è andato bene. Adesso che ovviamente c'è un ritorno dalla crisi economica e quindi, come veniva detto prima, molti italiani stanno cercando di ritornare a quella che è la loro richiesta di lavorare, a fare probabilmente anche i lavori un po' più umili, allora adesso questa gente non serve più. Però ricordiamoci che questa gente, fino a quando è servita, è stata sfruttata. Io non sono perfettamente cosciente dei nostri problemi, non si venga a parlare in casa del morto. Io in Sicilia ho il più alto livello di disoccupazione, soprattutto grazie alle politiche che sono state fatte in questi anni, e ricordo che c'è al governo in questo momento in Sicilia un governo di centrodestra che è stato alleato con la Lega, e c'è un governo di centrodestra da anni e anni. Quindi evidentemente, se c'è un livello di disoccupazione altissimo, è perché le politiche per l'occupazione non hanno trovato ampio riscontro nelle promesse che sono state fatte nel corso di questi decenni. E devo anche evidenziare il fatto che, ripeto, è una questione di rispetto. Allora, ringrazio Carolina Lussana della Lega, Sonia Alfano dell'IDV e Silvia Noè dell'UDC. Abbiamo visto, ci sono delle opinioni diversissime per queste elezioni europee, del resto è il bello della democrazia. La quota rosa. E in quest'ultima parte ci interessiamo di cose un po' più futili, che però insomma divertono, fanno sì che la vita sia più bella e più gioiosa. Allora, c'era una volta un'eroina che viveva alla corte di Francia, un'eroina che però doveva nascere maschio e invece è nata donna, e allora a quel punto è diventata una famosa spadaccina. Questa è un po' la storia di uno dei cartoni animati che ha accompagnato l'infanzia, almeno della mia generazione, quando eravamo invasi, la prima generazione versione invasa dei cartoni animati giapponesi, e dove c'era questa bellissima Lady Oscar, che noi ricordiamo, molto longilinea, bionda con gli occhi azzurri, che in pratica non faceva altro che guerreggiare e duellare. Questa Lady Oscar è arrivata a teatro a Roma, prima al Teatro Vascella, adesso addirittura al Teatro Sistina, ed è Alice Mistroni, 32 anni, di Ferrara, protagonista proprio di quello che lei ha definito un rock drama. Che cosa vuol dire un rock drama? Un rock drama, in quanto che la musica che è stata scritta da Andrea Palotto, che fa anche la regia di questo spettacolo e ha scritto anche la storia, ovviamente ricorda un po', diciamo, ha il sapore rock, ecco, diciamo, in questo senso. Quindi in questo senso è un rock drama, ed è il primo rock drama scritto interamente in Italia, non copiato dagli Stati Uniti. Quindi non c'è la canzone famosa o Lady Oscar, no, tutti fanno festa quando passi tu. Passi tu, no, non c'è. No. Come? Noi volevamo venire sempre a vederla per sentirla, no? Certo, no, noi colleghi diciamo sempre, certo, che tu potresti cominciare in platea cantando olè, cioè, e noi volevamo quello, noi volevamo una grande festa alla corte di Francia, ma sei nata tu, ecco. Tua madre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, tua madre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Ahimè sono nata io. Sì. Questa era veramente antifemminista, quindi anti-quota rosa, noi l'abbiamo cassata questa canzone. Allora, Alice e Mistroni, quindi lei è bionda con gli occhi azzurri, no? Perché rigidamente deve essere, ci devono essere certi canoni. Certo, no, sono bionda con gli occhi azzurri. Diciamo che al Vascello ero un po' più scura, ero un castano chiaro in realtà, ed ero preoccupata, perché poi sono venuti un sacco di fan di Lady Oscar a vedere lo spettacolo, e quindi io ho detto mamma mia, adesso questi. In realtà poi mi sono anche resa conto, perché anche per dirti, André, che è Danilo Brugia, André è moro nel cartone animato. E certo, in realtà Danilo no. Brugia è biondo. Aia, ecco. Avete fatto un però po' di confusione. Devo dire che alla fine sono stati seguiti abbastanza bene i personaggi, proprio i caratteri, la situazione, insomma, è stato studiato piuttosto bene, secondo me, mi auguro, o perlomeno anche da quanto è stato detto da coloro che mi hanno fatto delle critiche, devo dire quasi tutte positive, quindi sono contenta. Ecco, ma lei veste praticamente con l'uniforme da spadaccina, cioè ricalca un po' quello che era il cartone animato, sì, la sì, storia. Sì, io sono in uniforme, facciamo scherma, abbiamo le spade vere, abbiamo avuto Stefano Pantano, che è un campione olimpico di scherma, a farci lezione di scherma, abbiamo fatto 2 mesi di lezioni, abbiamo coreografato i duelli, insomma, quindi viene riprodotto, insomma, tutto nel possibile, ovviamente. Certo, è liberamente ispirato alla serie di Lady Oscar, anche perché Lady Oscar è stato prima un fumetto e poi un cartone animato talmente lungo che riuscire a mettere dentro tutto era impossibile. Ma che che donna è Lady Oscar in un mondo di veline? Lei è una donna che rifiuta un po' la sua femminilità, però poi è bella, poi insomma si innamora di André, è un po' una suffragetta ante litteram. Ma guarda, sicuramente lei è cresciuta con un padre che le ha fatto rifiutare la sua femminilità, e lei, secondo me, per tutta la sua vita ha quasi creduto in questa cosa, cioè si è autoconvinta, in quanto il lavaggio del cervello del padre è stato talmente forte che lei si è autoconvinta che è giusto così, e che lei deve essere un uomo, e che lei ce la farà, e che lei dimostrerà a tutti che non ha niente di meno di tutti gli altri uomini. In realtà questa femminilità è repressa e lei dentro di sé vuole tirarla fuori. Insomma, Lady Oscar è un po' tipo Calamity Jane, insomma, sì. Cioè ci sono queste donne un po' represse che poi a un certo punto però trovano l'amore, e a quel punto si fanno esatto. La ceretta, si mettono sì. La gonna, diventano bellissime, perché comunque sì, hanno già pelle prime. Esatto, c'è il famoso Conte di Fersen, che è il primo che la fa un pochettino, le fa riscoprire questo suo senso di femminilità che lei ha dentro, e che lui la fa sentire bella, e allora per un attimo lei ci crede, poi di nuovo lo reprime, perché comunque non è l'amore vero. No, anche poi alla fine conte lei... di Fersen era già impegnato. Esatto, e quindi lei poi alla fine si rende conto che comunque il suo amore vero era André. Purtroppo se ne rende conto quando André muore, ma insomma... Cioè, un po' sfigata questa la di Oscar. Diciamo abbastanza. Allora, Francesco Mantio, presidente dell'Associazione Cartoon Italia, buongiorno. Salve, buona giornata. Allora, abbiamo visto come Lady Oscar da cartoon addirittura è diventato uno spettacolo teatrale, ma prima di parlare della situazione italiana dei cartoni animati, noi vogliamo punzecchiarlo un pochino sulla nuova principessa Disney, che in onore al presidente Barack Obama è nera, ed è praticamente... una principessa nera, ma già ci sono dei problemi, perché la Disney ha un problema in corso. Il principe azzurro, diciamo così, di questa principessa Tiana, ragazza afroamericana di New Orleans che si scopre principessa, il principe azzurro è bianco, e tutti quanti hanno detto: ah, allora la Disney come al solito è razzista, perché la donna nera povera che sposa il principe bianco ricco. Beh, allora, intanto, siccome per fare un film a cartoni animati, in questo caso non è in 3D ma è in 2D, quindi la Disney ritorna alla tecnica classica, i grandi film, i film che abbiamo visto da bambini, dalla Carica dei 101 a Re Leone eccetera, sono film in 2D, Ratatouille, Toy Story eccetera sono film invece in 3D, cioè hanno una tridimensionalità che il disegno tradizionale non aveva. Ecco, questo è interessante, che la Disney ritorni con questo La Principessa e la rana con un film in 2D. Questo dal punto di vista tecnico è una cosa quasi più importante rispetto al tema. Siccome però per fare un film in 2D ci vogliono tantissimi anni di lavorazione, beh, forse in questo caso la scelta era precedente al fatto che Barack Obama non solo vincesse ma concorresse per diventare presidente degli Stati Uniti, quindi in questo caso diamogliela buona. Li ha sconfitti, la storia. Dal punto di vista poi della Disney, insomma, questa loro tendenza ad essere un po' conservatori. Allora, andiamo a parlare invece, abbiamo visto il teatro reagisce, no? Attivamente anche i cartoni animati, ma il mondo dei cartoni animati in Italia com'è? Non sta andando così male. Ci dà una bella notizia. No, non sta assolutamente male. Poi, parlando anche a una radio che si occupa spesso di economia, anche se non in questa trasmissione, no, bisogna dirlo, i cartoni animati italiani stanno andando veramente molto molto bene, e oggi al punto in Europa siamo al terzo posto dopo i francesi e i britannici, quindi è un ruolo importante anche dal punto di vista economico. Qual è il nostro grosso problema? È che essendo partiti per ultimi, pur avendo corso molto velocemente, in realtà nell'immaginario dei trentenni, quarantenni, cinquantenni, ovviamente c'è ancora Lady Oscar, c'è Goldrake, ci sono i grandi classici Disney. Noi fortunatamente siamo nell'immaginario dei bambini di 7, 8, 9, 10 anni. Quindi che ci con le Winx. Assolutamente sì, lei parlava appunto, si parlava prima dello spettacolo teatrale, questo rock drama, ma non dobbiamo dimenticarci che a teatro in questi periodi ci sono le Winx, ci sono i Cuccioli, c'è Geronimo Stilton, che sono dei successi straordinari che escono da cartoni animati prodotti, pensati, realizzati, ideati in Italia. Lei ci ha dato non una bella notizia, una bellissima notizia. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia e Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.